niente, c'è bisogno di tempo. Poi c'è il fatto che sicuramente hanno pochi fondi, nonostante i fondi di investimento siano cresciuti, rimane che il 52% delle piattaforme intervistate afferma che hanno investito i propri risparmi, per cui fanno ancora molta fatica ad accedere al credito e questo non gli permette di scalare, di fare degli investimenti più importanti. Poi c'è un problema anche di difficoltà a far capire e a comprendere un modello nuovo, no, di acquisto, di consumo, sebbene ci sia da parte degli italiani una forte propensione a scambiare, a condividere, sono comunque dei servizi nuovi e quindi non facilmente comunicabili. E infine c'è anche, diciamo, una certa poca strategia delle stesse start-up, che hanno una certa difficoltà a comprendere che l'obiettivo non deve essere soltanto quello di mettere in piedi la piattaforma, ma deve essere quello di continuare nel tempo per costruire quella massa critica necessaria a far partire effettivamente il servizio. Invention is always much more collective and collaborative than we think it is. L'invenzione ha sempre a che fare con la collaborazione e la cooperazione più di quanto noi pensiamo. Così ci ha detto qualche tempo fa Steven Johnson, teorico dei media, leader di pensiero nell'approccio interdisciplinare e collaborativo all'innovazione. Ci ha parlato di quello che definisce l'Hummingbird Effect, l'effetto colibrì, la sua teoria sulle conseguenze imprevedibili delle innovazioni e sulla loro lenta incubazione. Se i consumi, lo abbiamo appena sentito, stanno cambiando all'insegna della condivisione, della partecipazione, lo stesso cambiamento dovrà avvenire nelle aziende, nelle organizzazioni, per poter dare al consumatore le risposte che chiede. Abbiamo cercato e trovato una realtà che aiuta le grandi aziende in processi di trasformazione come questi. Si chiama Logotel, è una service design company. Abbiamo incontrato la design strategist Cristina Favini e le abbiamo chiesto di partire dalla definizione. Letteralmente vuol dire che diamo forma attraverso il progetto, aiutiamo quindi a progettare, abilitare, accompagnare le imprese nella progettazione e nello sviluppo di nuovi servizi che le aiutano di fatto a cavalcare un processo di trasformazione che il contesto di oggi porta inevitabilmente le aziende a dover vivere. Quindi Service Design Company è letteralmente la capacità di dar forma a nuovi servizi. Servizio che cos'è? Che è la capacità di scambiare valore tra noi, che possiamo essere brand, imprese, comunità, organizzazioni, e il nostro cliente. Cliente inteso sia come cliente finale, quindi la persona, no, che usufruisce del servizio, che compra il servizio, che decide di accedere a un servizio, ma può essere anche un cliente interno all'interno dell'organizzazione. Le aziende che si rivolgono a voi che cosa vi chiedono? Quali sono le richieste? Disegnare il futuro, creare valori e esperienze ai clienti, spesso ci chiedono proprio di fare il design della customer experience, creare nuovi strumenti, nuovi canali che appunto sono sistemi per accorciare le distanze tra loro e il proprio pubblico di riferimento. Altro è ingaggiare e formare il cliente, perché le aziende in un processo di innovazione spesso progettano prodotti con un alto tasso di servizio, che possono essere da nuovi prodotti tecnologici, anche prodotti con magari molto fisici, che però hanno una componente, no, di servizio molto alta, molto invisibile, che quindi è difficile da vendere. Quindi tutti quei sistemi che servono per formare la propria rete di vendita, per formare il suo cliente a comprare. Ci chiedono spesso, proprio in un processo di grande trasformazione, di aiutarli ad accompagnare il cambiamento delle persone. L'innovazione che va portata è un'innovazione sempre più estesa, è un'innovazione sempre più di sistema, ed è per questo che noi usiamo molto il concetto della collaborazione, nel senso scatenare processi collaborativi all'interno delle aziende. Ad oggi è l'unico meccanismo per costruire dei progetti di questa portata. Logotel infatti si definisce Service Design Company, ma proprio Payoff e Making Together, perché ci siamo resi conto in 20 anni di attività che il meccanismo, no, necessario per gestire, no, la velocità con cui bisogna portare a casa, no, risultati, iniziative, trasformazioni, presuppone che il modo di lavorare prima, molto parcellizzato, non funziona, e quindi in questo momento intorno ai tavoli si devono sedere più persone che a volte hanno linguaggi diversi, hanno, no, mentalità diverse, che danno anche un peso alle parole diverse. Quindi l'unico sistema per fare in modo di creare una progettazione, un accompagnamento trasversale, è quello di favorire la collaborazione. Dal vostro punto di osservazione, che in questo senso è un punto privilegiato, no, di contatto con le aziende, ritieni che questo modello collaborativo di condivisione stia crescendo, che ci sia in qualche modo in atto un passaggio anche culturale? Allora sì, penso che quando noi siamo partiti era molto all'inizio, poi c'è stato un momento di moda, per cui di colpo tutto è diventato collaborativo. In realtà è come se da una visione superficiale, no, di questo fenomeno, finalmente ci sia una reale consapevolezza. È diventata un'urgenza, nel senso, se oggi dobbiamo costruire dei servizi trasversali all'interno di un'azienda, e quindi l'organizzazione oggi è il grande limite, perché abbiamo detto che è organizzata più per divisione, per parcellizzazione, no? E se abbiamo poco tempo e se dobbiamo costruire cose nuove, e quindi dobbiamo aprirci a multidisciplinarità nuove, anche che la collaborazione diventa l'unico metodo. Dalla coffee bike ai fashion truck fino alla biblioteca itinerante, è il retail on the go, la nuova tendenza nei consumi che dal cibo contamina ormai tutti i settori. Ne parliamo tra pochissimo, subito dopo la pausa. Restate con noi. Essere e avere. Venga, l'aiuto io. Scendiamo e via, si parte. Incrociamo la vedova del tamburo della banda. Da quando lui è morto porta la giuba di suo marito. Attento, opla, Toli, segno della macelleria equina, ha perso un orecchio. Il signore che ride è il marito della fioraia. Ha delle rucchette maliziose intorno agli occhi. Ah, dal pasticcere ci sono le caliche Piero Grumò. Sente che profumo! È Peppone che fa gustare i suoi meloni ai clienti. Assaggiate i miei meloni, venite! Ah, c'è Marion che fa il gelato alle mandorle. Ora passiamo davanti alla salumeria, 79 il prosciutto con l'osso, 45 il guanciale salato. Ora il negozio dei formaggi, 12,90 il picadon dell'Ardèche, 23,50 il cabecù del Poitou. Dal macellaio c'è un bambino che guarda un cane, che guarda i polli arrosto. Ecco, siamo davanti al chiosco dei giornali, davanti alla fermata della metropolitana. Io la lascio qui, arrivederci. Focus sui trend. Non solo cibo, anche moda e cultura in generale, tutto il retail, per così dire, sale su ruote e diventa on the go. Sono sempre più diffuse le forme di vendita o di consumo in movimento, cioè al di fuori dei negozi tradizionali, dalle ape cara ai furgoni fino alle biciclette. I prodotti e i servizi, insomma, vanno incontro ai consumatori e fanno delle strade, delle piazze, dei luoghi pubblici il contesto della loro offerta. Ne parliamo con Luisa Schiero di Future Concept Lab. Ciao Luisa, bentrovata. Bentrovati anche voi, buon pomeriggio agli ascoltatori. Da dove iniziamo? Ma inizierei dal caffè. Interessante sia in Italia che nel mondo. Moderna evoluzione del gelataio da strada è la coffee bike. Di fatto è il bar più piccolo al mondo, che unisce una bicicletta e un carretto, al cui interno è collocata una mini macchina del caffè professionale che funziona con le cialde. L'idea è venuta a due trevigiani che da qualche mese lo stanno testando sui marciapiedi, nelle piazze, nei giardini della città, e lo chiamano espresso al volo, perché si sale in bici e si porta il caffè dove lo si ritiene più di avere più mercato. Infatti è stata già sperimentata questa coffee bike in eventi sportivi o manifestazioni musicali, per esempio. E guardando all'estero, invece, è interessante l'esperimento di Lavazza. A Boston, a novembre, è partito un tour dove per una settimana un furgone, appunto sponsorizzato Lavazza, vendeva il caffè dell'azienda torinese e percorreva le strade della città sia al mattino che al pomeriggio, all'interno di un percorso urbano prestabilito che si poteva però seguire su Facebook. Per l'azienda è stata un'occasione oltretutto per testare alcune nuove capsule. Mi hai segnalato anche un caso moda molto interessante. Sì, effettivamente proprio nella patria del food truck, gli Stati Uniti, sono sempre più diffusi anche questi camion o furgoni che si aggirano per le strade vendendo collezioni di abiti o accessori, e spesso di giovani designer. E per esempio Step to Stilo È un fashion truck che si muove a San Diego e è specializzato in abiti e accessori in stile vintage che riflettono la passione stilistica della designer che, rendendosi conto di non riuscire ad aprire una sua boutique in tempi relativamente veloci, è passata alla soluzione on the go, decisamente più interessante dal punto di vista economico. Tra l'altro questo furgone viene sempre più richiesto durante le feste piuttosto che eventi della città. Quindi ecco, in mancanza di investimenti è una formula soft per iniziare a inserirsi nel mercato. Esatto. Anche la cultura inizia a sfruttare queste potenzialità. Sì, infatti, e avvicinare il maggior numero di persone alla cultura è lo scopo principale del retail on the go quando si offrono libri o organizzano eventi culturali nelle strade e nelle piazze. Per esempio, presso lo spazio Expo Gate di Milano ad agosto è partito un evento dell'associazione Letteratura Rinnovabile che si chiama Le Biciclette Parlanti. Si tratta di 4 biciclette guidate da scrittori, librai, appassionati, dotate di un avanzato sistema di amplificazione senza fili. Cosa succede? Viene azionato a distanza e si diffondono sia in movimento che da fermi delle storie, brani tratti da selezioni di audiolibri da Calvino a Marco Paolini. Le puoi trovare negli aeroporti, nelle scuole, nei caffè letterari, nelle stazioni, quindi anche nei luoghi proprio di transito. Ottimo Massimo, invece, sempre in Italia, è un grande truck che da tempo gira per le strade d'Italia promuovendo le storie e i libri soprattutto ai bambini. Ha già raccontato storie a più di 20.000 bambini e proprio lo scopo in queste piazze, nei giardini, nei piccoli comuni è proprio quello di fare in modo che bambini di ogni ceto sociale, di ogni provenienza possano incontrare il libro. Piuttosto che, molto carino questo caso colombiano, ormai di successo da lungo tempo, che si chiama Biblio Burro. È una biblioteca itinerante che distribuisce libri sul dorso di due asini, appunto burro in spagnolo significa asino, Alfa e Beto. È stata creata da un professore, Luis Soriano, che ha iniziato con una biblioteca di 70 libri, ora ne distribuisce più di 7.000, non solo romanzi ma anche testi medici, addirittura racconti per i vari paesini colombiani. Negli Stati Uniti e in Canada, molto più moderno, Digital Book Mobile è un vero e proprio pullman che funge da libreria itinerante e contiene però solo libri digitali che si possono scaricare al momento. Anche la formula pop-up, il negozio temporaneo, può essere inquadrato sotto questa tendenza? Sì, esattamente. Infatti retail in movimento vuole dire però anche negozi temporanei che si spostano per essere sempre presenti agli eventi più interessanti nel mondo del design e dell'innovazione. Pop-up City Lounge è un progetto che ha debuttato nel corso dell'edizione 2000 di quest'anno della London Design Festival e si tratta della prima tappa di un tour mondiale. È un concept lounge bar sponsorizzato da Heineken all'interno di un loro programma di social design exploration. Nasce dalla collaborazione di 20 designer di diverse nazionalità ed è composto da questi due container di 13 metri ciascuno, riadattati per ospitare delle zone lounge per anche offrire una sorta di fruizione della birra rallentata, no? Hanno creato delle conversation cocoons, no? Ideali anche per godere un po' di privacy. È una formula che coniuga in un certo modo innovazione e tradizione, dico tradizione perché penso alle origini del commercio che da sempre è andato incontro al consumatore, penso alla tradizione degli ambulanti molto radicata ad esempio in Italia. Sì, esattamente, ed è interessante ricordarsi, forse non tutti lo sanno, che il fondatore della Rinascente nasce come ambulante, per esempio. Diciamo che il retail on the go crea dei punti di convergenza molto interessanti anche per i possibili sviluppi futuri di offerta di servizi e di prodotti tra i produttori barra distributori e gli acquirenti, perché risponde a molteplici esigenze sia dei consumatori che dei venditori. Da un lato soddisfa il desiderio costante del consumatore di essere spiazzato, divertito e sorpreso e dall'altro però consente un ampliamento delle occasioni di vendita. Se però poi crea un legame emotivo con la memoria individuale collettiva anche per la suggestione proprio dei mezzi utilizzati che hanno spesso un'estetica un po' retro e ricordano appunto istintivamente il noto carretto dei gelati della nostra infanzia, dall'altro però rendono accessibili a un ampio pubblico servizi altrimenti ben poco raggiungibili. Il consumautore. Siamo alla riflessione finale in compagnia del nostro ospite fisso, il sociologo Francesco Morace. Ciao Francesco, bentornato. Grazie, ciao Maria Luisa, buongiorno agli ascoltatori. Qual è il tema di oggi? Il tema di oggi è il magnetismo sociale in modo particolare, che è il nuovo modo di incontrare e nello stesso tempo condividere nuove esperienze. Tutto questo avviene in modo nuovo perché non conta più la classe sociale o la generazione, ma contano le passioni e i temi, le occasioni di vita che alla fine contano. Per il marketing questo che cosa significa? Che tipo di trasformazione comporta? Comporta una trasformazione profonda nelle modalità di segmentazione del mercato. Un tempo questo avveniva o partendo dai dati sociodemografici o poi negli anni 80-90 partendo dagli stili di vita. Oggi invece contano molto di più le occasioni di vita, e questo però spariglia completamente i giochi, perché ci sono persone apparentemente molto diverse che magari hanno la stessa passione o lo stesso interesse. Ecco, questa aggregazione trasversale per passioni, dici tu, è tipica della socialità online? Assolutamente, qui abbiamo davvero tanti esempi, ne faccio solo uno australiano, quindi poco conosciuto, è Redbubble, ed è una società che è anche un sito e anche un progetto dove si incontrano gli artisti di tutto il mondo che online propongono i loro progetti e i loro prodotti e scambiano creatività. Ecco, questo è solo uno dei tanti esempi, ma è soltanto il mondo online che permette fino in fondo di lavorare per magnetismo sociale. La coda lunga di Chris Anderson, da un mercato di massa a una massa di mercati di piccole nicchie, è così? Esiste ancora a sostanza questa riflessione? A sostanza questa riflessione è l'equilibrio tra la qualità e la quantità, e diciamo che se un tempo da un lato c'era il mainstream, quindi la grande massa, e dall'altra invece c'erano le nicchie, oggi ci sono temi che poi possono diventare anche molto ampi, quindi non necessariamente solo nicchie, ma trasversalmente gruppi di persone che si impegnano e si appassionano a qualcosa. Grazie a Francesco Morace, grazie a Peter Bescapè in regia. Finisce qui questa puntata di Essere Avere, riascoltabile e scaricabile come sempre dalla pagina di Essere Avere su radio24.it oppure dalla nostra pagina Facebook, dove trovate tutti i contributi aggiuntivi. Lasciateci lì anche le vostre idee, i vostri suggerimenti, in attesa di risentirci come sempre domenica prossima alle 15. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.